Se pensate che Dio non sia proprio un caro amico, se credete che Dio non sia neanche mai esistito, se capite che è tutta un'invenzione e che la Chiesa ha i diritti d'autore su quel personaggio che fu un uomo fra i tanti, Gesù. Fate bene, fratelli, fate bene, fratelli, fate bene, fratelli, fate bene, fratelli. Non ci basta il terrore della morte, il nostro vizio, ma per giunta ogni errore è punito a suo giudizio. E convinti che varcata la soglia non patiremo nessun'altra doglia, conversiamo fuori posto aspettando di nascosto. Non mi sembra corretto, ma restate fedeli alla terra, fratelli, rispetto. Domando scusa perché quando son nato ho peccato, perché mio nonno che è il re un giorno era affamato. Ma non mi inchino e neanche mi nascondo, perché ho la stessa fame di mio nonno e mi discosto dai tanti celati politicanti. Questo è dunque il segreto che ho imposto il divieto. È bottiglia da bere, arricchisce il potere. Voi vi chiedete dov'è quando vi affligge la pena, semplicemente non c'è. E c'è chi ride di schiena, sicuro ovunque quaggiù non si vede che sia questo il mistero della fede. Poveri bimbi piangenti e potenzialmente santi, clericale polizia, ladra e travestita spia, non alzare croci altrui lo schiaffare i tuoi. Io voglio essere innanzitutto a questo mondo rivolto, già non è facile e non è detto dare un pensiero ad un volto e dare un nome a un pensiero che viaggia come un veliero su questa pelle, tracciare una mia linea speciale. E dovrei persino entrare in questa cerchia malata. Potete dimenticare la mia faccia e questa serenata.